Tutti convocati Magazine di Carlo Genta. Buonasera a tutti, Franco Piantalida, autore di questo programma, Fabio Cantadori in regia. Fatto della settimana, beh, mi sembra che non ci sia gioco, non ci sia partita, anche se poi parleremo pure di altre cose, da Kakà, De Laurentiis, a responsabilità oggettive varie, però ha fatto impressione sentire Lance Armstrong con quella voce, guardarlo con quella faccia, con la camicia azzurrina, con quella giacca blu, dire quelle cose che tutti sapevamo. Oggi abbiamo un ospite che lo ha seguito molti Tour de France, che lo ha seguito in tutte le sue cavalcate finte. Cristiano Gatti, inviato del Giornale. Ciao Cristiano. Ciao, buongiorno a tutti. Di cui ho ripescato un articolo di archivio datato 2004, perché poi parleremo anche di questo, del giorno dello sfregio del padrino a Filippo Simeoni, che tra l'altro ieri è stato nostro ospite, pure poi risentiremo. Quella è stata proprio una dimostrazione di forza, quasi di violenza di Armstrong. Armstrong era il boss, Armstrong era il capobranco e imponeva la sua legge. Certo contrasta pesantemente con l'immagine che abbiamo visto nei giorni scorsi, quella di un agnellino contrito che chiede scusa e pietisce un po' di comprensione. Allora l'altro Armstrong nella prima vita era effettivamente un capo a tutti gli effetti, che incuteva soggezione e anche paura. Quella volta con Simeoni fu addirittura tracotante, perché Simeoni si vide addirittura lui, povero gregario, che cercava un pochino di gloria in una fuga da lontano, in una tappa anonima, si ritrovò le calcagna niente meno che il grande capo, che personalmente si scomodò, uscì dal gruppo per inseguirlo e disse ai fuggitivi: finché questo sta con voi, voi la fuga non la farete. Non la fate. Fu imporre la legge del più forte, tant'è vero che lo stesso gruppo impose al povero Simeoni di desistere, di rientrare nei ranghi con la coda fra le gambe. Fu un'umiliazione clamorosa, sì. Addirittura però fu ancora più clamoroso e anche un po' più vergognoso che il gruppo, non tutto e non troppo forte, si schierò dalla parte di Simeoni. Dunque adesso poi torniamo su questo episodio e sentiamo anche Simeoni, che tra le altre cose ha detto: mi chiedesse scusa, ma mi ha fatto troppo male, non so se gli tenderei la mano. Intanto torniamo su quelle parole, su quella faccia, spero che ce l'abbiate davanti agli occhi, di Lance Armstrong seduto, gambe incrociate di fronte a Oprah Winfrey. I want the truth. Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Yes or no? Was one of those banned substances EPO? Yes. Did you ever use any other banned substances like testosterone, cortisone, or human growth hormone? Yes. Yes or no? In all seven of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope? Yes. You found a million ways to let me down, so I'm not hurt. In your opinion, was it humanly possible to win the Tour de France without doping? Seven times in a row. Not in my opinion. Say it to me. Ecco, Cristiano. Al di là di, non so, abbiamo usato lo sfondo di questa magnifica e struggente canzone, però l'effetto strano, tutte cose che sapevamo, che sono scritte nei verbali della WADA, eccetera, eccetera, l'effetto scenico, no? Di Armstrong che dice: sì o no, hai preso sostanze dopanti per incrementare le tue prestazioni sportive? Sì. Hai preso l'EPO? Sì. Hai usato trasfusione di sangue? Sì. Hai fatto uso di altre sostanze come testosterone, cortisone, ormone della crescita? Sì. Hai preso sostanze dopanti in tutti e sette i Tour de France vinti? Sì. Ed è impossibile vincere sette Tour senza usarli. Questo dice Armstrong. Sì, colpisce molto a livello emotivo questa raffica di monosillabi. perché non ha fatto molte parole su queste domande fondamentali che sono poi il succo della confessione di questa interminabile intervista. Questi monosillabi che arrivano come pietre tombali sul suo mito e che contrastano così pesantemente con il primo Armstrong, che alla sola parola, alla sola eccezione, al solo sospetto ha sempre reagito in un modo indignatissimo, al limite dell'offensivo e comunque con toni sempre molto minacciosi. Tutti quelli che in questo tempo hanno provato a porgli delle domande non così dirette, non così pesanti, ma anche solo per avere qualche spiegazione, si sono sempre ritrovati in faccia un Armstrong incattivito, minaccioso, che addirittura è passato alle vie dirette con delle querele. I giornali in giro per il mondo ne sanno qualcosa, tant'è vero che adesso cercano di avere un risarcimento. Lui ha sempre voluto essere il cavaliere solitario della grande storia americana, quindi intoccabile e quindi sospettabile, e alla sola parola doping aveva sempre risposto: il doping mi ripugna, io ho un'altra storia, io sono la storia bella del che ha battuto il cancro, che batte tutti gli avversari, che batte i record. E non era possibile neanche minimamente sostenere questa ipotesi, che vincere 7 tour consecutivamente, come non era mai riuscito nessuno, fosse quantomeno, non dico sospetto, ma comunque discutibile, senza alcun aiuto. Ma da parte di Rans c'è sempre stata l'indignazione più assoluta, e lo stesso investigatore Travis Nygaard, che è il segugio dell'USADA, dell'antidoping americano, che è di fatto quello che l'ha messo alle strette andando a raccogliere certosinamente le confessioni degli ex compagni, lui stesso ha dovuto subire le minacce e i toni feroci di Armstrong per un lungo tempo, per un lungo tempo. Proviamo a sentire invece anche quando Armstrong era il cowboy, ad esempio sul podio del 2005 prese il microfono e arringò la folla in questo modo. He brings it to an end as a winner, the first ever stage he has won this year, the first bike race he has won this year. Armstrong wins the time trial and wins the Tour de France. And finally, the last thing I'll say for the people that don't believe in cycling, the cynics and the skeptics, I'm sorry for you. I'm sorry you can't dream big, and I'm sorry you don't believe in miracles. But this is one hell of a race. This is a great sporting event, and you should stand around and believe. You should believe in these athletes, and you should believe in these people. And I'm a fan of the Tour de France for as long as I live, and there are no secrets. This is a hard sporting event, and hard work wins it. So vive la Tour. Forever, thank you. Che faccia di tolla, viene da dire. Mi dispiace per tutti quelli che non credono nel ciclismo, per tutti quelli che non credono nelle favole, per tutti quelli che non credono che si possa vincere puliti. Guarda, Carlo, a forza di prendere musate, noi del ramo, noi che ci siamo assorbiti questi 20 anni di bugie, abbiamo imparato almeno una cosa. Che i grandi dopati del ciclismo, ma anche dello sport in generale, sono soprattutto degli spudorati e dei mentitori professionali. Sono, secondo me, dei grandissimi attori, perché quello che riescono a dire con la coscienza sporca, il modo che usano, gli occhi che usano per dire queste cose, secondo me sono degni dell'Actor Studio, ma ad altissimo livello. Sì, abbiamo anche un'altra dichiarazione di quando gli chiedevano, di quando gli dicevano: ma ti sei mai dopato? E lui rispondeva con questa voce: Can you unequivocally say you have never used an illegal substance ever? Listen, I've said it for 7 years, I've said it for longer than 7 years, I have never doped. I can say it again, but I've said it for 7 years, it doesn't help. But the fact of the matter is I haven't. And if you consider my situation, a guy who comes back from arguably a death sentence, why would I then enter into a sport and dope myself up and risk my life again? That's crazy. I would never do that. That's no. Eh? Actor Studio. Mai fatto niente. Mai fatto niente. Vergini, si sono sempre professati. Ma tutti, lui sì. Oramai resterà il simbolo, a suo modo, una nuova icona da quello che era dell'invincibilità a quello della menzogna professionale. È una tecnica, oltre al doping, oltre alla chimica, alla farmacia, bisogna veramente diventare professionisti della bugia. Della bugia. Tutti convocati Magazine. Some people are gone forever, but I'll spend the rest of my life trying to earn back trust and apologize to people for the rest of my life. This story was so perfect for so long, and I mean that. And as I try to take myself out of the situation and I look at it, you overcome the disease, you win the Tour de France 7 times, you have a happy marriage, you have children. I mean, it's just this mythic, perfect story. Yes. And it wasn't true. And that wasn't true. And that was not true. That was not true. Non era vero nulla, lui dice. Tra l'altro questa canzone, Camera dei Wilco, è una delle sue preferite, l'ascoltava nelle cuffie, magari non tanto quando facevi i rulli. Adesso, pensando in modo un po' perverso, chissà cosa faceva quando, mentre ascoltava questa canzone. Dice: passerò il resto della mia vita cercando di riconquistare la fiducia della gente, di scusarmi per quel che è successo. Questa storia è stata perfetta per tanto tempo, era difficile venirne fuori. Uscito da un cancro, 7 Tour de France vinti, una famiglia fantastica, dei figli, una storia perfetta, soltanto che, come avete sentito, non era vera. Acri. Guarda, in tutto questo ci sta dentro ovviamente il grande costume americano, no? Che si culla di queste storie perfette, che ha bisogno di queste storie perfette e che se le racconta la sera prima di dormire per sentirsi migliore. Quando poi il mito va in frantumi, è chiaro che è difficile rimettere assieme i cocci. Lui dice che passerà il resto della sua vita a cercare, chiedendo scusa, a cercare di recuperare un po' di fiducia. Io devo essere molto sincero, ma non per sparare sulla Croce Rossa, non per infierire su un poveraccio che è finito nella polvere, che non è mai bello, però per cercare di essere analitici fino in fondo. Io devo dire che questo Armstrong 2, la riabilitazione, non è partita secondo me nel modo migliore. Tanto per cominciare, secondo me le confessioni si vanno a fare davanti a un tribunale, o ai giudici che detto. Stanno indagando, o comunque o ai tuoi stessi, alla giustizia sportiva. Sì. E una storia così pesante, che implica risvolti penali, risvolti sportivi, ma risvolti anche etici per tutto il mondo sportivo, secondo me non doveva ripartire in televisione, con tutto il rispetto. In televisione ci si va per comunicare, poi per dare spiegazioni, certo, per raccontare emozioni, certo, ma in un secondo tempo. Quindi io sinceramente come primo passo lo capisco poco. Senti, tu mi raccontavi tra l'altro prima di un episodio accaduto molti anni fa, quando tu e Piero Augusto Stagi scopriste dei valori, che venne fuori questa storia di valori anomali in uno dei primi tour vinti da Armstrong. Sì, sì, dovevano cosa essere uno dei primi, dei primissimi anni 2000. No, niente, venne fuori da un comunicato alla commissione medica che aveva eseguito i controlli, che Armstrong aveva alcuni valori, aveva dei valori di ormoni un po' alti. E allora, alla fine della tappa di quella giornata, noi e altri giornalisti di altri paesi gli chiedemmo conto di questa cosa. E lui reagì nel solito modo, indignatissimo, dicendo: ma come prendete questo episodio così banale, una barzelletta, sostenendo che praticamente aveva avuto un'irritazione al soprassella, il medico gli aveva dato questa pomata. E tant'è vero che nel giro di poche ore fece vedere l'autorizzazione del medico ad assumere questa pomata, che era proibita. Però assumibile con prescrizione medica. Adesso lui, nella sua lunga confessione, ha fatto un cenno a volo d'uccello su questo episodio, che è diventato ovviamente marginale, spiegando che quella autorizzazione medica fu retrodatata, scusa. Per cui anche noi adesso ci siamo spiegati come quell'episodio, che fu liquidato in fretta grazie, sì, a questo certificato, che fu l'occasione per farci dare degli avvoltoi dai grandi sostenitori di Armstrong, perché allora era come sparare una fucilata in chiesa, anche solo dubitare di Armstrong, perché sì, Armstrong era l'assoluto, era la certezza, e per cui ti trovavi veramente messo in un angolo se soltanto pronunciavi il nome in vano. Senti, ci sono due grandi temi che ho visto nei giorni scorsi la gente vuole affrontare. Il primo: com'è possibile che passi attraverso le forche caudine di migliaia di controlli e non venga mai beccato? E poi nella gente italiana, negli appassionati di ciclismo italiano, c'è una gran voglia di riabilitazione di Marco Pantani alla luce di questa storia. Non dimentichiamo quell'episodio che fu l'ultimo del Mont Ventoux, con quella vittoria ostentatamente regalata a Pantani quasi a mo' di sberleffo. Però dicono Pantani è stato fatto fuori poi, di fatto fisicamente, se vogliamo, per quell'episodio a Madonna di Campigli, un valore di ematocrito alto, eccetera eccetera. Questo adesso esce dicendo: ho vinto 7 tour prendendo un inferno. Infatti io non voglio star qui a dire che Pantani fosse innocente, io voglio star qui a dire che sicuramente il ciclismo, i vertici del ciclismo, le istituzioni del ciclismo hanno reagito in due modi diversi. A Pantani non fu perdonato nulla, non fu concesso nulla. Ad Armstrong si ha l'impressione, e bisogna sottolineare che è un'impressione, tutti hanno concesso molto molto troppo credito, per non parlare, come molti si aspettavano, che lui confessasse, di coperture dirette, perché non va dimenticato che ci sono scienziati che hanno collaborato con i laboratori dell'UCI, che hanno eseguito i controlli in tutti questi anni. Ci sono alcune voci fuori al coro che hanno detto: sì, ci sono stati anche dei valori anomali che dovevano farci pensare, dovevano metterci in guardia, ma sono stati trascurati. Addirittura c'è un medico che dice che Armstrong veniva avvertito in anticipo dei controlli a sorpresa, e che addirittura gli fu spiegato in un'occasione come funzionavano questi controlli, in modo da poterli poi, a livello farmacologico, in qualche modo eludere. Il clamore di questa intervista della duchessa Oprah era legato soprattutto all'ipotesi che Armstrong, oltre a confessare cose che sapevamo già, perché oramai era inchiodatissimo, arrivasse a fare il passo definitivo di trascinare nella vergogna anche le coperture di cui eventualmente ha goduto. E qui è il secondo limite della sua confessione, che non è utile, che non è una confessione come tutti ci aspettavamo, almeno oltre a essere così drammatica, così rovinosa, servisse almeno a far chiarezza in assoluto e a magari anche a fare piazza pulita su qualcuno che ai vertici l'ha coperto. Fin qui invece non si è spinto, ha soltanto detto genericamente che è disposto a mettersi a disposizione per raccontare la lunga storia. Devo dire che raccontare la lunga storia del suo doping senza fare i nomi di chi l'ha aiutato, perché non è pensabile che un doping così sofisticato, certo, fosse gestito con un semplice fai da te e con un frigoriferino di campagna. Sicuramente entra in gioco il mitologico dottor Ferrari, che era il suo medico di fiducia, che lui difende ancora e ne parla come una brava persona, e non abbiamo purtroppo elementi per dire il contrario, nel senso che Ferrari più volte è stato inibito, è finito per altri motivi, però per la questione legata ad Armstrong non ha mai avuto problemi seri e prove a carico. Il fatto stesso che Armstrong ancora lo difenda a spada tratta non aiuta a fare chiarezza, punto uno. Io dico che noi comunque l'anello al naso non l'abbiamo, per cui se Armstrong si addossa le colpe del doping e lo confessa, se davvero vuole ottenere alla lunga quel quella comprensione e anche il perdono al termine del lungo percorso. Lui deve per forza aiutare lo sport a far chiarezza sul sistema, perché non può pensare che noi crediamo all'idea che lui abbia fatto tutto da solo. No, assolutamente, ed è questo il vero punto di tutte le storie di doping, compresa quella di Schwarzer, comprese tutte le altre, che dicono ok, sono andato in Turchia, ho portato i soldi, ho preso l'EPO, ho fatto tutto da solo, nessuno sapeva nulla. Non abbiamo giustamente l'anello al naso, perché una volta che confessi devi davvero far cadere il castello, se non una confessione inutile fino a se stessa. Io tornerei a Simeoni che era diventato il grande nemico di Lance Armstrong, un corridore piccolo, un uomo del plotone, un uomo del gruppo, un gregario, che è stato anche campione italiano ed escluso dal Giro d'Italia con la maglia di campione italiano in quel Giro d'Italia in cui venne Armstrong, guarda caso. Simeone aveva confessato pubblicamente, poi pagato la sua storia di doping e le sue frequentazioni appunto con il dottor Ferrari. Da lì era diventato il nemico di Lance Armstrong. Ieri l'avevamo sentito, Filippo Simeoni. Ma no, sinceramente no, perché io ho subito dei grossi danni sportivi in quel periodo, perché purtroppo ho dovuto subire di tutto, ritorsioni, offese, umiliazioni, di conseguenza queste parole io già le conoscevo, già sapevo cosa succedeva, quindi per me cambia poco sinceramente questa missione, ma poi fondamentalmente al momento è uscito poco, perché lui credo che dovrebbe fare una confessione più completa, perché sta, fino adesso ha descritto solo un sistema, sta dicendo solo le cose che fanno comodo a lui, ma quelle che realmente farebbero bene all'ambiente forse ancora non le ha dette, non so se mai le dirà. Le scuse le posso anche ricevere, però l'umiliazione è stata tanta, ho subito tanti danni a livello sportivo, economico, che insomma non lo so sinceramente se potrei accettare le sue scuse. Tutti convocati Magazine. Beh, Cristiano Gatti, tra un po' cambiamo argomento, perché vorrei affrontare altri temi della settimana, però vorrei rimanere un attimo su queste parole di Pippo Simeoni. Non mi tendesse la mano, non so se gliela stringerei. Beh, io apprezzo molto la sua sincerità e anche la sua posizione. Filippo Simeoni non è un permaloso che non sa perdonare. Filippo Simeoni è uno che fa l'uomo fino in fondo, secondo me. Sarebbe ipocrita da parte sua a questo punto far fino una pacca sulla spalla, dire ma sì amici, come prima abbiamo scherzato. Filippo non ha esagerato quando parla di umiliazioni, di danni, di offese. Non sta facendo la vittima, è quello che effettivamente lui ha provato in tutti questi anni. Come hai detto tu, era diventato il nemico giurato di Armstrong, e in fondo non solo di Armstrong, di tutto il sistema omertoso che gravava in quegli anni in gruppo. Come avveniva negli anni bui delle dittature, chi diceva la verità, in questo caso Pippo Simeoni, ne usciva un po' da folle, un po' da pazzo, come uno da cui guardarsi e come uno di cui disfarsi in fretta chiudendolo in un angolo. Quindi la fatica a trovare una squadra, la fatica a correre, fino all'episodio clamoroso del Giro d'Italia in cui torna Armstrong in pompa magna con un ingaggio di 600.000 euro, partenza da Venezia. E Filippo Simeoni con la maglia di campione italiano casualmente non c'è, prima volta nella storia del Giro d'Italia, e con tutti quanti a dirci che Simeoni non c'è perché Armstrong, per venire oltre a tanti soldi, ha detto in gruppo non c'è posto per tutti e due, o lui o io. Senti Cristiano, per chiudere il discorso e poi passare oltre, un ultimo flash, il Tour de France che Armstrong ha corso con Contador. Come si è comportato in quel tour? Qual è stata la posizione di Contador? Cosa è successo all'interno di quella squadra in cui c'erano due galli, uno ormai alla fine della carriera, tra l'altro ha detto che in quegli ultimi due tour non si è dopato, poi adesso credergli diventa tutto un'operazione di fede. E, infatti non li ha vinti, tra l'altro. E l'astro nascente. Ma guarda, è storia, perché tutti vedevano, nessuno nascondeva neanche tanto, perché era difficile nascondere. Credo che per capirci bene, chi ha fatto il militare anni fa e arrivava in una caserma del CAR degli Alpini con i nonni che imponevano le angherie peggiori, può capire quello che Contador, e dico Contador, non un ragazzino qualunque, ha subito in quel Tour de France, che peraltro ha vinto. Contador si è trovato isolato, ma in tutti i sensi, anche fisicamente. A cena mangiava in un altro tavolo, perché la corte di Armstrong aveva deciso che quel tour voleva vincerlo, perché c'era la grande storia da raccontare di lui che torna e rivince il tour. Contador, tranquillo, con la sua calma, corse quel giro contro la sua stessa squadra, prima ancora che contro gli avversari delle altre squadre, e vinse. Ma tutti i giorni Armstrong non perdeva occasione per fargli capire che lui era ancora un ragazzino e che prima di diventare un capitano avrebbe dovuto ancora soffrire tanto. Sì. Senti, adesso passiamo oltre. Ti faccio sentire un'altra canzone, perché pare che certi amori non finiscano e pare che certi amori possano ricominciare da martedì a Madrid. Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Possiamo chiederti perché sei qua? Oh, avevamo due giorni liberi, siamo venuti a trovare un po' di amici. Oggi Galliani... Paga il conto del mio fratello. Oggi Galliani oggi ha parlato di te. No, ma io sono venuto veramente per quello, solo per quello, per trovare un po' di amici qua a Milano. Ma c'è la possibilità di rivederti se no, Richard? No, io adesso ti parlino le società, io non sono qua per questo. Ma tu sogni il ritorno, è una cosa vera questa? Ah, io sono sempre molto grato al Milan, però ho un contratto con il Real Madrid. Ma il Real Madrid sembra che ti possa lasciare in prestito, Ricky. Non lo so, che loro si mettono d'accordo. Andrei a trovare il Milan. È una situazione... piacevole. Scusa, posso farti una domanda? Ni per me, ni per la... Per ma tu saresti disposto a rinunciare a qualcosa per ritornare al Milan? Del tuo Io ho già detto che sono disponibile a trovare una soluzione con il Real, se è bella per me, è bella per loro. Ma sì. Galliani... Robinho, tu lo vorresti vedere con te al Milan? Non c'è che giocassi con te. Ah, io lo amo, sì. Aspetta che possa venire a giocare con me qua. Ti manca qualcosa? No, ragazzi, lasciate. Solo se ti manca Milano, quanto ti manca Milano? No, io ho vissuto dei bei momenti qua, quindi... Sono contento di essere qui. Saluti i tifosi del Milan, almeno? Un saluto a tutti, grazie. Ciao. Ciao Cacà, ci vediamo presto. Cosa dici, Cristiano Gatti? Ma non è che sia un mistero che al Milan piacerebbe tanto questa cosa. Il problema vero, al di là degli affetti, dei sentimenti, è sempre quello, è l'ingaggio di Kakà, che è stratosferico e che il Milan non è più disposto a pagare. Per cui credo che l'operazione si possa fare solo a condizione che Kakà accetti di guadagnare un po' meno. Credo che poi stringi la situazione sia questa. Sì, anche lui però non si trova in una situazione in cui ha molte carte da giocare. Sì, o fa la statua in tribuna a Real Madrid, quindi rinuncia a fare il giocatore e si fa coprire da una montagna di soldi, o va a prendere questi soldi in posti improbabili e comunque ai margini del grande calcio, torna in Brasile o comunque lascia un club di vertice, oppure torna a Milano. È fatica a capire questi grandi campioni del giorno d'oggi. E in qualche modo, fatte le debite proporzioni, con situazioni diverse, ricorda un po' il caso di Schneider, cioè di queste grandi bandiere che hanno fatto il loro tempo nella grande squadra, mantenendo però il contratto di quando erano grandi bandiere, perché i presidenti gliel'hanno firmato, quindi non è che hanno avuto la pistola alle tempia. Certo. Allora bisogna decidere se questi uomini sono di fronte al bibbio, se è meglio essere ancora il numero uno guadagnando un po' meno, e per un po' meno noi sappiamo che non vuol dire mangiare pane e cipolle, no. Essere il numero uno in un ambiente che ancora ti considera un semidio, che sarebbe il caso di San Siro, del Milan, certo. per Kakà, oppure se vale di più farsi la cassa pensione per una vecchiaia serena in qualche, come dicevi tu, in qualche sobborgo del grande calcio. Io dico, non lo so, bisognerebbe trovarci, sì, e purtroppo nessuno di noi ci si troverà mai. Io dico soltanto che secondo me loro per due o tre generazioni sono già sistemati, per cui sì, se ci fosse la possibilità di giocare ancora con una certa passione, con certi stimoli, con un certo calore attorno, visto che ha ancora l'età per farlo, io l'occasione la coglierei al balzo. Però non voglio entrare nelle tasche di Kakà, quindi neanche in quelle di Berlusconi. E neanche in quelle di Berlusconi. Altro tema settimanale che introduciamo con anche in questo caso con della musica diversa da quella di prima. Senti. Già cacofonico di suo lo spagnolo con il tedesco, eh? Sì, mettere però insieme un'operazione complessa. Però riallacciandoci al discorso che facevamo sui casi Kakà e Snyder indirettamente, devo dire nel caso di Guardiola si può davvero dire che è prevalsa la scelta ragionata, intelligente, un po' di cuore, un po' di cervello, perché non si può dire che a Guardiola mancasse la possibilità di scegliere. Avrebbe potuto prendere dal buffet del grande calcio tutto i piatti migliori, tutto quello che voleva. Aveva grandissime squadre pronte e grandissimi ricconi pronti a soddisfare tutte le sue pretese economiche. Invece ha scelto, come usano dire adesso, il progetto, che poi significa andare a lavorare bene in un ambiente che ti accoglie, che ha delle idee, che non guarda solo ai soldi o ai risultati. Che comunque i soldi ne ha molti. E pagato benissimo lo stesso, perché il sacrificio è sempre relativo. Però ha saputo trovare questa alchimia personale che secondo me è comunque ammirevole, perché è uno che ha vinto tutto, che ha insegnato tutto e che ha voglia di ricominciare in un altro modo, in un altro paese, e ha scelto forse il paese che più gli consente questo, sì, gli mette a disposizione organizzazione, una certa calma, una certa pazienza, i giusti soldi, perché quelli sono sempre da inserire nel bouquet. Tra l'altro, però ecco, io dico che Guardiola rappresenta l'esempio di come le scelte possano essere fatte al di là del mito dei soldi, anche con una certa ponderazione. Sì, tra l'altro l'unica grande squadra che Mourinho non ha mai detto di voler allenare. Sì, è vero, giusto, giustissimo. Quindi è andato a piantare la sua bandierina lì dove Mourinho ha mai detto vado ad allenare, neanche mai è stata fuori per sbaglio. Sì, ha sempre parlato dei tre campionati migliori dei tre paesi, cioè Inghilterra, Spagna e Italia, non ha mai citato neanche di striscio i tedeschi. Sì, d'altra parte anche Guardiola, cioè le soluzioni o va in bocca agli sceicchi che sono lì, ti coprono d'oro, poi chissà, o vai da Abramovic che ha preso l'abitudine di giocare con la pelle degli allenatori. L'unica altra panchina di questo tipo poteva essere quella dello United, ma c'è un monumento sopra, quindi sì, no. Sì, io devo dire che poi i fatti pronti a smettirci dopo tre sconfitte lo cacciano anche i tedeschi, allora noi siamo qui a darci. Però devo dire che così, vista da qui, vista da adesso, è una scelta molto stimabile, molto apprezzabile, che secondo me serve anche come a livello simbolico all'ambiente del grande calcio. Per la strada, per la deriva che ha preso adesso, dove questi sceicchi, questi magnati russi, gli ultimi grandi danarosi a potersi permettere follie, ci avevano un po' allenati ultimamente alle cose un po' più tristi, nel senso che si prende il migliore, quanto costa, e me lo porto a casa. Sì. Invece con Guardiola è andata un po' diversamente, segno che resta la riserva indiana di chi ci mette anche qualcosa d'altro, esiste ancora e resiste. Il capo è Guardiola di questa riserva indiana. Tutti convocati Magazine. Allora, Cristiano Gatti, inviato del Giornale, il campionato era falsato secondo De Laurentiis perché gli hanno tolto punti ai giocatori. Fa appello, niente, colpo di spugna e come per magia il Napoli torna a 3 punti dalla Juventus. E per De Laurentiis è tutto un po' meno falso, è tutto un po' meno brutto. Credevo e credo ancora che si debba cambiare molto e soprattutto non legarsi ad un passato che non ha pagato quasi mai. E quindi io ringrazio i giudici di aver considerato, loro si sono riuniti a lungo, quindi credo che ci sia stato un lungo dibattito e questo ci premia e premia tutto il calcio italiano, perché vuol dire che su delle importanti situazioni si pensa e soprattutto poi alla fine si verifica che l'innocenza fa grande la giustizia. L'innocenza fa grande la giustizia e giova a tutto il calcio italiano, magari non proprio all'Atalanta o al Siena, al Torino. Una certa parte magari. Il punto centrale è questo, siamo tutti lieti che per i tifosi napoletani che la cosa sia finita con questo happy end. Resta però purtroppo aperta, incombe sul calcio questa nube nera di questa giustizia ballerina inaffidabile, inattendibile, o comunque di una giustizia che non riesce a dare certezze. La sensazione che tutto il sistema dà è che ci siano binari che procedono non in modo parallelo. Ci dobbiamo chiarire se questa responsabilità oggettiva delle società vale o non vale, se vale solo per alcune o se, no, o se vale per tutte. La sensazione è che stavolta, dalle sentenze di questi ultimi mesi, questo ciclone che ha investito il calcio, parentesi, le scommesse clandestine non è che sono finite, evaporate con queste inchieste. Le scommesse clandestine sono una metastasi a livello mondiale che prosegue, prosperoso, certo. E da cui bisognerà guardarsi sempre e che darà ancora grossi fastidi a tutti i campionati. Ecco, chiusa questa parentesi, dobbiamo chiarirci. La sensazione da queste sentenze di questi ultimi mesi è che la responsabilità oggettiva oramai è ad elastico. E sì. Allora sarebbe fondamentale in un sistema normale, sensato, sedersi attorno a un tavolo e stabilire una volta per tutte se questa responsabilità oggettiva, che a tutti sembra un po' forzata, cioè dire che se sbaglia un dipendente risponde l'azienda, è molto forte, però bisogna vista... al di là della quello che volevo dire, sì, decisamente, che al di là della decisione che si prende, che quando una regola è stabilita da qualcuno, subita ovviamente, perché è chiaro che non tutti sono d'accordo, ma quando una regola è stabilita ed è scritta va rispettata da tutti quanti, deve valere per tutti quanti, anche in sede di sentenze e di appelli. È chiaro, no, perché la responsabilità giuridica dal mio punto di vista è proprio giuridicamente un'aberrazione, cioè che tu risponda per una situazione che altri commettano. In questo caso, nel caso delle scommesse, secondo me ha una sua ragione di esistere, perché tu, società, non puoi lavarti le mani e non sapere che cosa fanno i tuoi dipendenti, i tuoi tesserati. Non è un'azienda con 1 miliardo di dipendenti, si tratta di una squadra di calcio che ha un organico con dei dirigenti, presumibilmente anche delle persone addette a capire cosa succede all'interno di uno spogliatoio, cioè in quel senso la responsabilità oggettiva mi sembra meno aberrante di quanto avvenga in assoluto, insomma. No, soprattutto nel momento in cui le società sono vittime di questi accordi, sì, di questi, sì, taroccamenti. Sì, sì. Mi rifiuto di credere che una società assista impotente a certi risultati, quantomeno strambi, quantomeno singolari. È chiaro che la società, presumo io, sia sempre vigile, sia sempre abbastanza in pressing sui suoi giocatori, vista l'aria che tira. Quindi, anche dal mio punto di vista, le società devono essere in qualche qualche modo responsabilizzate. Forse è il caso di ribilanciare, di ricalibrare le pene, nel senso che magari una società può essere chiamata a rispondere un po' meno rispetto a quanto risponde il colpevole, vero, certo, il dipendente. Ecco, però torno a ripetere, a battere quel chiodo: una volta che si è stabilita una regola, deve valere per tutti. La sensazione che abbiamo avuto con queste ultime sentenze è che la responsabilità oggettiva valga per alcune società e che per alcune no, ed è chiaro che questo non può stare in piedi, perché mette in ridicolo il sistema tutto. Cristiano, abbiamo ancora un minuto per scoprire da te se secondo la tua opinione questo campionato, adesso che il Napoli è tornato a parlare alla Lazio e si ricomincia a giocare, è veramente aperto o ce la stiamo raccontando? Guarda, si era detto sei secoli fa, ma sei settimane fa anche meno, che soltanto la Juve poteva perdere sto campionato, perché sembrava talmente forte il suo strapotere da far pensare a una cavalcata. Come sempre, quando hai troppo vantaggio troppo presto tendi un po' a rilassarti, a sederti, è umano, è comprensibile. Io continuo a credere che alla lunga la pausa, la vacanza natalizia della Juve cessi. Non posso pensare che improvvisamente questa squadra a rullo compressore abbia perso il vizio, non sappia più come si fa. Così come penso che anche le grandi rimonte del Napoli, della Lazio, non possano andare avanti a questi ritmi, perché la Lazio per esempio sta facendo benissimo come nessuno avrebbe, ecco, per cui se devo dire un'opinione, secondo me la Juve prontamente avrà una reazione, sì, quindi la vedo ancora vincitrice. Sono d'accordo con te. Io ti ringrazio, Cristiano Gatti, inviato del giornale, per essere stato con noi e spero di ritrovarti a questi microfoni quanto prima. Grazie. Grazie, saluto a tutti. Grazie anche a Franco Piantanida, autore di questo programma, Fabio Cantadone in regia. Domani vi lascio a Dai e Vai, a Dai e Vai, 16:30, 19 e poi 22:23 con il duo Gattuso Fiorentino. Buona serata a tutti. I sogni son desideri. Secondo Cenerentola, i sogni son desideri.